Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. This is the end, my only friend, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. 27 anni. L'età maledetta che ha visto morire tanti grandi del rock. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Tutti giovanissimi, talentuosi, lacerati dal dolore dell'esistenza e dal peso di un successo che non lascia tregua. È la storia che vogliamo raccontarvi oggi. È la storia del leader dei Doors, Jim Morrison. È la storia di un uomo. Ci sono diversi tipi di libertà. Ci sono parecchi equivoci in proposito. Il genere più importante di libertà è di essere ciò che si è davvero. Si baratta la propria libertà per un ruolo, si barattano i propri sensi per un atto, si svende la propria capacità di sentire e in cambio si indossa una maschera. Si può privare un uomo della sua libertà politica e non lo si ferirà, finché non lo si priverà della sua libertà di sentire. Questo può distruggerlo. Duro, profondo, diretto. Il temperamento di Jim Morrison non è mai stato una posa. Il suo essere un provocatore era la sua natura. Per essere liberi ha sempre detto è necessario andare contro tutto e tutti, ma mai contro se stessi. Anche lui, come gli altri ragazzi del rock, muore a 27 anni. E il 3 luglio del 1971 si è appena trasferito a Parigi con la sua fidanzata, Pamela Courson, in un grande spazio situato in un palazzo del XIX secolo, al numero 17 di Rue de Beautrail, nel Marais. Ha in mente di ricominciare. Basta col bere, basta anche con la musica. Solo poesia, d'ora in poi. Bere è un modo di rendere sopportabile la vita in una situazione di sovraffollamento. Ed è anche una conseguenza della noia. La gente beve perché si annoia. Amo bere. A volte stimola la conversazione, le persone si sciolgono. È un po' come il gioco d'azzardo. Esci di casa per passare la serata a bere e non sai dove ti troverai il giorno dopo. Potrebbe andarti bene o finire in un disastro. È come un lancio di dadi. Alle prime luci del mattino di quel tragico 3 luglio, Pamela rientra e lo trova nella vasca da bagno. Un corpo rigido, senza vita, senza più speranza di essere salvato. Bill Siddons, l'agente dei Doors, prende il primo volo da Los Angeles e atterra a Parigi poche ore dopo. Però non può vedere il cadavere, non lo vede nessuno, tranne gli addetti al pronto soccorso e il dottor Max Vassil, oggi defunto, che non ha mai rilasciato interviste eccetto dire che Morrison è morto per cause naturali e più precisamente per infarto. Non verrà mai fatta nessuna autopsia. E il cadavere verrà riposto al cimitero di Père Lachaise, dove ancora oggi i fan continuano a riporre fiori e bigliettini. Già, il cadavere. Ma in molti sono convinti che non ci sia nessun cadavere, che Jim non sia morto davvero, ma abbia finto per ricominciare a vivere nell'anonimato, forse in Africa, a rincorrere il mito di Rimbaud che aveva fatto altrettanto, o alle Seychelles, un paradiso che citava spesso. Jim Morrison, secondo numerose testimonianze, non aveva mai assunto eroina negli Stati Uniti e prima di trasferirsi in Francia aveva sempre detto di odiare sia le droghe che le siringhe. Non sono interessato alle droghe. Me ne hanno offerte spesso, ma non ho bisogno di nessun tipo di pillola. Eppure una delle ipotesi più verosimili riguardanti la sua morte sembra legata all'overdose. Jim frequentava spesso il Rock and Roll Circus, un locale noto come luogo di ritrovo degli eroinomani. Che avesse la fobia degli aghi è abbastanza irrilevante. L'eroina può essere assunta anche mediante inalazione. E una combinazione con l'alcol può risultare letale. Impossibile però stabilire se ne avesse fatto uso, visto che non è stato fatto nessun esame del sangue, nessuna analisi accurata, nessuna autopsia. Un amico pusher si era confidato con Elizabeth La Rivière, detta Zozo, una modella amica di Pamela, preoccupato che Jim potesse essere morto in seguito alla droga che lui gli aveva fornito. La cantante Marian Faithfull ha raccontato invece che il conte Jean de Beautrail, pusher delle star, era angosciato dall'idea di fare la fine di uno spacciatore da strapazzo nei guai fino al collo per avere dato l'ultima dose letale a Jim Morrison. Gli elementi che non tornano sono tantissimi. Il DJ americano Cameron Watson, dopo essere stato avvicinato da due spacciatori, aveva dato un annuncio lampo della morte di Jim. E Pamela, dal canto suo, ha dichiarato che lei e Jim erano andati al cinema, quindi al ristorante. Infine avevano sniffato eroina a casa. Jim si era sentito male e nella notte si era immerso nella vasca da bagno. Allora, come aveva fatto lei a trovarlo rientrando? Rientrando da dove? Con chi era? Troppi dati non coincidono, troppe cose sono confuse. E se per qualcuno la sua libertà, le sue provocazioni, il suo essere inquieto e rivoluzionario avessero rappresentato una minaccia? È un'altra delle mille congetture fatte su una morte avvolta dal mistero. Forse la verità non la sapremo mai. Ci resta però la sua musica e i suoi testi, che sono poesie prestate alla canzone. Le nostre canzoni più interessanti si sono sviluppate col tempo, suonandole ogni sera nei locali. Cominciavamo con una canzone abbastanza semplice e poi la musica diventava una specie di fiume ipnotico di suoni che mi rendeva libero di diventare qualsiasi cosa mi passasse per la testa in quel momento. Mi piacciono le canzoni, ma la parte dello spettacolo che mi piace di più è quando posso scegliere delle vibrazioni dalla musica e dal pubblico e seguirle ovunque vadano. L'infanzia di James Douglas Morrison, classe 1943, è segnata da continui spostamenti. Nasce a Melbourne, Florida, non lontano da Cape Canaveral, da Clara Clark, figlia di un avvocato del Wisconsin, e George Stephen Morrison, un ufficiale della Marina americana appena tornato da una missione di posature mine nel Pacifico e che costringe la famiglia a seguirlo nei suoi trasferimenti in giro per l'America. George, militare integerrimo, va e viene dalla guerra. Come ufficiale della Marina dovevo vivere un periodo a terra e un periodo in mare. Per la metà del tempo non c'ero. Ho cercato di farlo sentire il capo famiglia e lui cercava come poteva di prendersi cura di sua madre in mia assenza. Ha visitato tutte le navi in cui prestavo servizio. Sebbene avesse ammirazione per la Marina e per il mio lavoro, era chiaro che non gli interessava seguire la mia professione. Jim ha un carattere ombroso fin da piccolo. È un solitario, fa fatica a farsi degli amici e il continuo cambio di scuole unito a un clima di instabilità costante non fa altro che spingerlo a chiudersi sempre più nel suo guscio. Jim era un ragazzo molto intelligente, gli piaceva scrivere e disegnare. Ero certo che avrebbe avuto successo perché era creativo e scriveva bene. Per fortuna in casa ci sono due cose che consolano l'animo malinconico di Jim: l'affetto e l'appoggio incontrastato di sua sorella Anne e i libri. È coltissimo. La sua formazione da autodidatta è così profonda che gli insegnanti ogni volta restano sorpresi delle sue citazioni erudite, anche troppo per un ragazzino della sua età. Il suo quoziente intellettivo fuori dal comune, ben 149, lo aiuta a memorizzare di tutto. Mio fratello era un lettore avido, leggeva di tutto e prendeva continuamente appunti. Leggeva i classici, li prendeva dalla nonna e riusciva a scrivere una storia intera da una parola appena imparata. Aveva un'incredibile proprietà di linguaggio. Una volta uscì dall'aula dicendo all'insegnante che doveva farsi togliere un tumore al cervello e in realtà voleva leggere. Quando si è diplomato ha chiesto in regalo tutte le opere di Nietzsche e non un'automobile come tutti i suoi coetanei. Chicago. Be flat on the rise and follow. può un episodio vissuto a 4 o 5 anni cambiare la vita di qualcuno? Secondo Jim, sì. La storia è questa. È un bambino, sta viaggiando in macchina con i genitori e i nonni nel tratto di strada di circa 60 miglia tra Santa Fe e Albuquerque, quando improvvisamente intravede un incidente. Urla a suo padre di fermarsi e lui inchioda. La fermata è così brusca che qualcuno dietro perde l'equilibrio. Jim vede dal finestrino un camion di indiani ribaltato, con molti pelle rossa gravemente feriti stesi a terra. Comincia a sognare la scena. Notte dopo notte si trasforma in incubo e poi in un'ossessione che lo perseguiterà anche da adulto. Jim dirà sempre di sentirsi posseduto dallo spirito di un antico uomo della medicina indiana, uno sciamano. Quella fu la prima volta in cui ho sperimentato la paura. L'anima dei fantasmi di quegli indiani morti, forse uno o due di loro, che erano proprio lì intorno, folleggiando, e mi arrivarono nell'anima e io ero lì come una spugna, pronto a stare fermo e ad assorbirli. Non è una storia di fantasmi, è qualcosa che per me ha un significato profondo. Se l'adolescenza è un periodo difficile per la maggior parte dei ragazzi, nel caso del giovane Morrison è tutto molto amplificato. Dentro di lui si sta facendo strada un tormento esistenziale che qualcuno scambia per il classico momento di passaggio dall'infanzia alla vita adulta, ma che invece è ben altro. Ansia, inquietudine, sensazione di essere sempre nel posto sbagliato, ricerca costante di qualcosa di non ben definito per sfuggire al grigiore della quotidianità. Jim legge freneticamente. Il suo umore si è fatto più cupo, il suo carattere più aggressivo. Fregandosene dell'apparenza, fa di tutto a partire dal look trasandato per non sembrare un bravo ragazzo. Non va a scuola per frequentare i locali beat di San Francisco, dove si è trasferito con la famiglia, inseguendo il mito del vagabondaggio senza regole, che nella libreria City Lights di Ferlinghetti trova la sua culla. Non penso che lo sciamano, per quel che ho letto, sia molto interessato a definire il suo ruolo nella società. Gli interessa di più seguire le sue fantasie. Per un padre come George Morrison, ufficiale di marina ligio al dovere e rispettoso delle regole, la cosa più importante è vedere suo figlio che si diploma. E invece Jim non si presenta alla consegna. Bellissimo e sfrontato, incanta le ragazze con il fascino del maledetto e si diverte a infastidire con le sue uscite impetuose per il puro gusto della provocazione. Scandalizzare i benpensanti è la sua missione, rompere le convenzioni la sua strada. Dopo una lite furibonda con suo padre in seguito al diploma mancato, sbatte la porta e se ne va. A Tallahassee, Florida, durante una partita di football, viene arrestato per ubriachezza e disturbo della quiete pubblica. Sul suo diario annota tutto. Suggestioni, emozioni, pensieri, che anche se ancora non lo può sapere, finiranno per diventare i testi delle prime canzoni dei Doors. Solo la poesia lo fa sentire in pace con se stesso. Il volo della mente, incessante, instancabile, senza meta e senza confini, senza vertigini. È maestoso come un'aquila eterna. Anne, la sorella di Jim Morrison, teme tantissimo per il suo futuro. Sa che suo fratello ha una genialità che non gli consente di vivere come gli altri, ma anche che quella stessa genialità potrebbe diventare pericolosa, portarlo a fare scelte sbagliate. Ero certa che Jim sarebbe stato un beatnik povero per tutta la vita. Ero molto preoccupata per lui. Temevo che nessuno avrebbe scoperto il suo talento, perché lui non sarebbe mai sceso a compromessi. Sapevo che avrebbe fatto qualcosa di straordinario. Blues, pittura, la poesia di Blake, Rimbaud, Baudelaire, i libri di Kerouac, le bettole di Fort Belvoir, sono queste le cose che interessano a Jim Morrison. È un ribelle, si nutre di libertà, rincorre il mito della vita senza regole, soprattutto perché, educato da un militare, di regole ne ha sempre avute tantissime. Al momento di iscriversi all'università sceglie la UCLA, l'Università della California di Los Angeles, corso di cinematografia. I suoi genitori, neanche a dirlo, sono contrari. Per la fama libertina della UCLA, innanzitutto, e poi per la città che secondo loro avrebbe trascinato Jim in un vortice di sesso, droga e anarchia. Negano il loro contributo economico, pensando di vincere. Lui, testardo e distaccato, non fa una piega e usa quelli dell'assicurazione stipulata quando era un bambino. Incomincia un periodo di avventure, di notti divise tra la rigogliosa biblioteca e i locali malfamati, tra i corridoi dei campus e le bettole dove sentire il blues. I suoi amici sono poeti, scrittori, artisti, musicisti. Insieme bevono fino a diventare quasi alcolizzati, fumano. Scoprono l'LSD, la droga psichedelica che promette viaggi mentali in mondi paralleli. Jim mangia pochissimo, fino a diventare magro come un chiodo. Però è bellissimo. Viso perfettamente scolpito, occhi magnetici, capelli ricci lasciati sulle spalle. Scrive sempre di più. Il diario e canzoni malinconiche, al limite dello struggimento. Vorrei scrivere una canzone che sia pura espressione di gioia, una specie di cerimonia che renda omaggio alla vita, che parli dell'arrivo della primavera o del sorgere del sole, che esprima una gioia sfrenata allo stato puro. Tutto questo io non l'ho ancora fatto. È proprio alla UCLA che Jim Morrison incontra il suo primo magnifico incontro del destino. Ha qualche anno più di lui, viene da Chicago e lo colpisce subito per la sua personalità complessa e i suoi mille interessi. Il suo nome è Ray Manzarek. Sono cresciuto a Chicago e quando ero 21enne l'ho lasciata per Los Angeles. È stato qui che giorno dopo giorno mi sono appassionato al cinema. Ho capito che il cinema poteva combinare i miei interessi per la drammaturgia, le arti visive, la musica, la realizzazione economica. Prima di lasciare Chicago ero interessato al teatro, più come performance che come disciplina. Da piccolo, per la verità, Manzarek è più interessato al baseball che alla musica. Poi un giorno, mentre è in campo ad allenarsi, qualcuno appena fuori accende la radio su una frequenza che trasmette solo black music. Ray viene letteralmente rapito. E così comincia a suonare il piano e a ricercare vecchi dischi in giro per i mercatini di Chicago. Ero solito ascoltare Al Benson e Big Bill Hill. Erano dei disc jockeys di Chicago. E da allora tutta la musica che ascoltavo veniva dalla radio. E il mio modo di suonare il piano cambiò. Venni influenzato dal jazz. Imparai a suonare lo stride piano con la mano sinistra e compresi che mi attraeva il materiale con del ritmo. Jazz, blues, rock. Tutto questo, anche se ancora non potevo saperlo, avrebbe influenzato Jim e avrebbe influenzato anche la musica dei Doors. I magnifici destini. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, ai magnifici destini siamo a metà degli anni 60 e all'Università di Los Angeles, facoltà di cinema, Jim Morrison ha appena incontrato il suo primo magnifico destino, Ray Manzarek. Jim è un poeta tormentato che divora libri, scrive e da sempre preferisce una vita bohemienne alla tranquillità delle convenzioni sociali. Figlio di un militare che ha tentato in ogni modo di educarlo con rigore, ha fatto della ribellione il suo stile. Ray è molto diverso, indeciso tra la carriera da regista e quella da musicista. Educato, rispettoso, ma anche lui pieno di talento che non aspetta altro che venire fuori. Jim veste sempre allo stesso modo, maglietta bianca e jeans stretti, come se dare un qualsiasi altro indizio possa spostare l'attenzione dall'essenza all'apparenza. Con Manzarek, Morrison parla di tutto. Filosofia, cinema italiano, blues e soprattutto del suo stato d'animo. La sensazione che ho è quella di una profonda malinconia. Due cortometraggi. È questo che produce Jim Morrison in tutta la sua carriera da regista, che finisce già all'università. Neanche piacciono questi lavori. Non ci sa proprio fare. I suoi interessi si focalizzano sempre più sulla letteratura e la musica, sulla commistione che queste due arti possono avere attraverso le canzoni. Vuole solo potersi esprimere e raccontare le sue storie senza abbandonare quello stile di vita selvaggio che gli dà l'illusione a tratti di essere veramente libero. Un giorno, passeggiando lungo la spiaggia di Venice, Jim canticchia a Manzarek il testo di una canzone che ha appena scritto, Moonlight Drive. Lo ammette, la sua inesperienza nella scrittura musicale gli impedisce di tradurla sul pentagramma. La musica lo appassiona da sempre, ma non è un musicista. Manzarek, in questo momento, fa parte di una band chiamata Rick and the Ravens, insieme ai suoi due fratelli Rick e Jim, e riconosce immediatamente il potenziale del suo amico. Così gli propone di creare un nuovo gruppo. È una delle scene più intense del film diretto da Oliver Stone del 1991,

La casa discografica Elektra decide di rischiare proponendo ai Doors un contratto esclusivo per 7 album. Loro accettano. The Doors, il primo album, è una bomba. Uno dei dischi più venduti dell'anno insieme a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Manzarek dà un'impronta unica al sound, un blues rock psichedelico contaminato da jazz. Morrison sul palco diventa uno sciamano indemoniato e disperato, un Dioniso festoso e intenso che vive il concerto come una mistica seduta spiritica, in grado di proiettare tutti oltre le porte della percezione. È così che lo immortala anche il fotografo Frank Lisciandro, suo amico dai tempi della UCLA. In scena Jim subiva una completa metamorfosi. La sua voce dolce e garbata diveniva roca, aspra, profonda e potente. La sua posa dinoccolata si faceva arrogante, baldanzosa. Il suo quieto volto si trasformava in migliaia di maschere di tensione, di emozione. E i suoi occhi, di solito così penetranti e attenti, diventavano vacui e lontani, fino a tramutarsi in due finestre illuminate davanti al pubblico. Con questo sguardo chiaroveggente, Jim sembrava scrutare sia nel futuro sia nel passato. Emetteva strani suoni animaleschi, urlava, strepitava come se soffrisse. I suoi abiti di cuoio e di pelle di serpente crepitavano e gemevano quando si muoveva. Le sue movenze, i suoi gesti si facevano spasmodici, frenetici, come se fosse in preda a una crisi epilettica. Danzava non in modo fluido e aggraziato, ma con brevi passi saltellanti, un moto a stantuffo, sporto in avanti, la testa che scattava su e giù. Si muoveva come un indiano d'America in una danza rituale. Sul palco Jim diventava lo sciamano, usava il concerto come un rito, una cerimonia, una seduta spiritica, e lui era lo strumento per la comunicazione con il sovrannaturale. Spesso il messaggio era sfocato e così si perdeva tra la musica, i miti, la magia e la follia. I magnifici destini. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Ai magnifici destini siamo nella seconda metà degli anni 60 e Jim Morrison, poeta dall'animo tormentato, è il frontman dei Doors, carismatico, sciamanico. Sul palco si muove in quel modo sinuoso che gli regala il soprannome di Re Lucertola. E la canzone Light My Fire, che raggiungendo il primo posto della classifica di Billboard, sancisce l'ingresso dei Doors nell'Olimpo del rock. I successi, le esibizioni sempre più scandalose, spesso censurate, seguono vorticosamente. All'Ed Sullivan Show, un talk seguitissimo, viene chiesto a Jim di cambiare una parola su un testo. Lui dice sì, e poi, rabbioso contro un sistema che rifiuta con tutto se stesso, la pronuncia in diretta. Apposta, pur di rimanere fedele a se stesso e alla sua spinta a non piegarsi mai. Al Portland Memorial Coliseum, Jim incita la folla a scatenarsi e il concerto viene interrotto. All'arena di New Haven, Jim provoca i poliziotti, viene arrestato sul palco. Urla e provocazioni estreme alimentano il tutto esaurito ovunque, in un periodo in cui il fervore e la contestazione stanno per aprire le porte, appunto, alla rivoluzione. Sono sempre stato attratto dalle idee di ribellione contro l'autorità. Quando ti riconcili con l'autorità, diventi tu stesso un'autorità. Nel 68, in piena contestazione, la fama dei Doors è all'apice e Morrison continua a eccitare le folle di tutto il mondo. Declama poesie, diviene un'icona, le fanno lo idolatrano, lo citano sui diari, immortalando quelle frasi che sarebbero presto diventate aforismi per tutte le generazioni a venire. D'altra parte, la poesia, molto più che la musica, è il grande amore di Jim. Scrive da sempre, anche se non ha il coraggio di pubblicare. Di cantare quello che scrive, sì, ma di pubblicarlo, no. Gli sembra di essere troppo presuntuoso a considerarsi un poeta. Sente di non essere all'altezza, di non potersi paragonare ai poeti veri. Il performer scatenato in scena, quando si tratta dell'intimità dei suoi versi, diventa un agnellino indifeso. E poi arriva la svolta, con un grande, magnifico incontro del destino, quello con Michael McClure. She looked at me and told me in the world. Jim Morrison vive nella frustrazione di non essere apprezzato come poeta. È quello che vorrebbe di più al mondo, in fondo. Vorrebbe essere poeta molto più di quanto gli interessi fare il cantante. Quando scrivi una poesia devi entrare in uno stato mentale particolare, che è quello in cui può indurti la musica, con la sua capacità ipnotica di allentare i freni e lasciare che l'inconscio possa scaturire. Nonostante la sua insicurezza, di estimatori ne ha parecchi, e anche illustri. Fernanda Pivano, per esempio, che l'ha definito capace di estasi e affranto dalle miserie della vita. O il suo amico Michael McClure, quel magnifico incontro del destino che adora i suoi versi. Lui di poesia se ne intende. Celebre protagonista della San Francisco Renaissance, beat immortalato dall'amico Jack Kerouac in Big Sur con lo pseudonimo di Pat McLear, McClure è diventato famoso quando con altri 4 poeti e amici, tra cui Allen Ginsberg, ha preso parte al reading collettivo alla San Francisco Six Gallery. McClure insiste parecchio perché Jim Morrison pubblichi le sue raccolte di poesie. Ormai è famoso, il mondo lo ama, i Doors mietono successi, ma deve farlo, per lui. E alla fine Jim decide di fidarsi. Nel 1970 escono 2 titoli, I Signori e Le Nuove Creature. I fan sono entusiasti, la critica scettica. Il dolore è l'elemento che può ancora risvegliarci. La gente tenta di nascondere la propria sofferenza, ma è un errore grave. Il dolore è qualcosa da portarsi dietro, come una radio. Puoi avere cognizione della tua forza affrontando il tuo dolore. Tutto dipende da come lo sopporti. È questo che conta. La sofferenza è un sentimento. E i tuoi sentimenti sono parte di te, sono la tua realtà personale. Se ti vergogni di loro e li nascondi, permette alla società di distruggere la tua realtà. Ognuno dovrebbe rivendicare il diritto di esibire il proprio dolore. Quanto pesa la sua celebrità nelle valutazioni della sua poetica? Quanto il giudizio viene influenzato dal personaggio icona a cui ha dato vita? Tutte domande che forse non avranno mai una risposta. Ma lui adesso che ha deciso non se ne cura. Come suo solito, una volta scelto non si guarda indietro, non cerca di accontentare nessuno e continua a riempire diversi centinaia di taccuini e foglietti volanti, poi riuniti nelle raccolte postume Deserto e Notte Americana, da molti considerate l'apice della sua poetica. In tutti i divieti c'è una magica forza che induce alla tentazione. Il vietato è contagioso. I desideri proibiti si propagano in noi come tormento perenne, infuriato dall'inibizione. L'ubbidienza al tabù presuppone la rinuncia, perché tutti i divieti sono menomazioni che nascondono i desideri. Così la tentazione cresce a dismisura nella prigione dell'inconscio. La parabola dei Doors è breve e incendiaria. Il declino comincia quando Jim comincia a fare uso di sostanze stupefacenti, dichiarando invece poco prima di morire che le odiava. Gestirlo è molto difficoltoso. Processi per atti osceni, svenimenti sul palco, condotta molesta. Più cresce il successo, più lui si autodistrugge. Finché decide improvvisamente di dare un taglio a tutto questo. Basta con la musica d'ora in poi. Solo poesia per ritrovare se stesso e ricominciare a vivere. Siamo nel 1971 e Pamela Courson lo aspetta a Parigi. Dopo pochi mesi, Jim morirà, lasciando un incredibile vuoto. Lasciando un'impronta indelebile nella musica, nella cultura. Lasciando dopo di lui il mito.